Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni, 6.30 e 13.30. La politica locale, le storie di cronaca italiana, il costume, lo spettacolo, la cultura e molto altro ancora. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Esponente della Democrazia Cristiana, ministro dell'Interno, presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro ha attraversato la storia italiana dal dopoguerra ai nostri tempi. Oggi si dedica alla difesa dei valori scritti nella nostra Costituzione. Giovanni Bracco l'ha intervistato per questa puntata speciale di Italia in controluce. Con Oscar Luigi Scalfaro, presidente emerito della Repubblica, padre costituente, parliamo del degradamento morale, del distacco dei cittadini dalla politica, della situazione del paese. Io sono in politica dal periodo clandestino. Questa lunga vita che rasenta i 65 anni, questo periodo è certamente il peggiore. Questo attuale che viviamo, la situazione risponde al termine disastro. Però io trovo un'infinità di risorse, di capacità, di reazioni, di voglia, di entusiasmi. Quindi devo dire che io sono ostinatamente ottimista. Nulla c'è di umano che resiste per sempre. Allora io non so quando questa stagione finirà, però sono certo che finirà. Io ricordo che lei chiese un impegno forte nel 94 quando conferì l'incarico all'onorevole Berlusconi, un impegno sulla risoluzione dei conflitti di interesse. Che bilancio possiamo fare? Non posso non riconoscere le responsabilità dello schieramento di sinistra verso il quale ho sempre avuto un'attrattiva maggiore, ma il conflitto di interessi dove è finito? Chiuso in un cassetto? Secondo me ci fu una valutazione totalmente errata sulla mentalità, sull'animus, sul modo di muoversi del Presidente del Consiglio. Cioè ci fu una immediata mentalità di chi dice lasciamo queste cose, ce lo facciamo amico. Dobbiamo avere paura di una nuova prova elettorale? Ebbene invece un richiamo alla responsabilità degli uomini politici di buona volontà per mettere mano alla grave crisi economica, alle soluzioni per questa crisi, a una nuova legge elettorale. Qual è il bene del Paese in questo momento? Un giorno, quando è morto il mio amico Francesco Cossiga, del quale non ho pressoché condiviso nulla delle sue grosse sortite, dicendolo a lui in libertà assoluta, in quell'occasione racconto un fatto che non ha avuto nessuna espressione esterna, ma mi venne vicino con grande garbo l'ex ministro dell'Interno, già nostro collega sardo, è stato un ministro dell'Interno saggio, equilibrato, e sapendo dai giornali che lui ogni tanto era col Presidente del Consiglio, mi permisi di fare un'ipotesi e gli dissi: scusa, ma non vi viene il pensiero che si potrebbe fare un governo lasciando il Presidente del Consiglio, ma che accettasse l'incarico di fare anzitutto una legge elettorale? Mi permetto di dire che non mi importa quale, però gli chiederei di fare una legge elettorale che abbia almeno non meno dell'80% di voti del Parlamento, qualunque essa sia. Sono convinto che se ha una maggioranza di questo genere non può essere una legge ignobile come l'attuale. Adesso il discorso è diventato molto poco attuabile, evidentemente. Io rimango fermo che sui due grossi contendenti, Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera, c'è una volontà spietata di non andare alle elezioni. È vero che è solo un fatto negativo, ma dimostra che ognuno di questi ha il sacro terrore, sia personale, perché per un verso o per un altro la sconfitta sarebbe durissima, sarebbe un calcio sui denti, mi permetto di dire, ma sia anche per pensare in mezzo a un'Europa ridotta a questo punto, in mezzo a un mondo occidentale, si direbbe più affaticato dell'altro, questo paese che fa parte dei paesi più industrializzati, in mezzo a una battaglia che non ha divisioni, non ha scopi, è un tumulto, un tumulto. E questo credo che serva a impedire il peggio. Oggi non è poco. Ma un governo può, secondo lei, essere affidato magari a una personalità esterna? Lei fu protagonista nel 92-93 di questo tipo di scelta. Vede, però mi sembrava che uscire un po' fuori dalle norme politiche si potesse dare un respiro. Non so se questa sia l'epoca in cui molti galli nel pollaio possono aumentare il numero delle uova. Il richiamo all'esperienza di Ciampi a quegli anni mi ha fatto tornare in mente che erano anche anni in cui c'erano tensioni, non solo sul versante finanziario. La mafia colpiva duro, la mafia mordeva. Ciampi ha rivelato di aver temuto a un certo momento un colpo di Stato. Aveva avuto anche lei la stessa sensazione? No, ma posso capire la presenza di persone non edusa alla battaglia politica, quindi senza contare che in quelle cose non è capitato, ma insomma poteva capitare. Essendo stato ministro dell'interno io negli anni in cui si sparava quotidianamente, e insomma ero molto attento e temevo, ho temuto seriamente che in qualche modo in piazza ci scappasse un morto. Perché questo impedisce alla gente di ragionare, e allora uno si trova con la rivoluzione in atto, non sa neppure perché è scoppiata, ma è difficile poi frenarla e incanalarla. Per fortuna questo non capitò, si è fatto tutto il possibile perché non capitasse, ma possiamo ringraziare la provvidenza di Dio se non è capitata. Ecco. Le nuove indagini sulle stragi di quegli anni hanno aperto però delle finestre con scenari inquietanti. La trattativa è un'immagine che scuote profondamente le coscienze, non trova? Devo dire che sono stato ministro dell'interno, sono stato presidente della Repubblica, mai mi è giunta una notizia che avesse un quid di serietà, ma c'è un tema che mi ha sempre lasciato estremamente insoddisfatto. Anche quando fu giudicato e condannato un funzionario dei servizi, processo a Palermo molto faticoso, dove un uomo di eccezione, capo della polizia, che era stato capo di uno dei settori dei servizi, prima di essere capo supremo della polizia, andò a fare il testimone a difesa, non tanto su quell'episodio che poteva conoscere in parte, ma tu Stato chiami delle persone le quali sono in primissima linea e gli dai il compito di tenere contatti, di conoscere, di parlare, come fai poi a processarli? Non lo dico adesso, l'ho detto sempre, ma quando voi ho pescato un fatto grave di tradimento, allora è un altro discorso, ma quando continuate a lavorare intorno, chi l'ha messo? Chi gli ha dato anche il compito in qualche modo di dialogare per sentire le intenzioni, le cose? Allora mettete in conto che ci sia un momento di sfiducia, gli date un pacco di quattrini e che non metta piedi in Italia da nessuna parte, in nessuna veste per 10 anni. Questo è un discorso, ma quello di andare 15, 20, 30 anni dopo, non riesco a capire quanto ci sia di ingegno e quanto ci sia di piccole vendette personali, quanto ci sia di gelosie, quanto si dia spazio ai lati peggiori degli esseri umani. La seconda edizione di Italia in Controluce. Sul mio blog radio24.it trovate anche l'annuncio delle iniziative a partire dal 6 dicembre che Radio 24 dedica alla nuova rinascita della Calabria che si ribella alle mafie e all'andrangheta. Poi Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani 6:30.